La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. Si chiude anche il mese di luglio con un altro weekend al cinema, con cose piuttosto interessanti a livello di uscite per quella che è appunto la stagione, con il più grande dei piccoli festival, il più piccolo dei grandi, che comincia la prossima settimana, Locarno, dando il via a questa stagione dei grandi festival estivi, insomma con tante cose di cui parlare come sempre durante questa ora cinematografica qui a Radio 24. Allora cominciamo subito a entrare nei temi della trasmissione coi titoli di testa. Storia di contrabbando e redenzione. Nelle sale Contraband, con Mark Wahlberg nei panni di un criminale ormai dedito alla famiglia, alle prese con un'ultima missione. Nel cast anche Ben Foster e Giovanni Ribisi. Cosa accade la notte sotto il nostro letto quando noi ci dormiamo sopra? E se qualcuno approfittasse del nostro sonno per infilarsi sotto le doghe? È quel che accade alla protagonista di Bad Time, il ritorno del maestro del thriller spagnolo, Jaume Balagueró, già artefice della saga di Rec. Al via il 1 agosto il Festival di Locarno, da Alain Delon a Eric Cantona, passando per Charlotte Rampling e Gianni Morandi, animeranno le notti di Piazza Grande. Ne parliamo col direttore del festival, Olivier Perre. Sostiene Nanni, ultima tappa. Si conclude il nostro viaggio nel Moretti Pensiero, con gli highlights della lezione di cinema tenuta al Festival di Pesaro. Oggi il regista ci parla dei suoi ultimi lavori e dei nuovi progetti. Bene, allora queste sono le tematiche di questa puntata. Come sempre parleremo delle novità in sala, che sono il cuore della Rosa Purpurea, ma vogliamo cominciare con il Festival di Locarno, che comincia il prossimo 1 agosto per concludersi l'11, 11 giorni in riva al Lago Maggiore, come sempre in Piazza Grande per vedere i film sul più grande schermo del mondo, ma anche tante proiezioni in concorso nelle sezioni collaterali e una bellissima vitalità che tutti gli anni dimostra questo festival. Quest'anno un festival un po' all'insegna del cinema indipendente, soprattutto americano, con ospiti davvero importanti. L'anno scorso, ricordo, la scena fu rubata praticamente da Aliens and Cowboys, quindi da Harrison Ford, Olivia Wilde, Daniel Craig, insomma nomoni del cinema hollywoodiano. Quest'anno tanto cinema europeo, ma ai massimi livelli. Ci sarà Charlotte Rampling, ci sarà Alain Delon, che insomma è forse il massimo del divismo sotto il profilo europeo. Ci sarà Eric Cantona, grande idolo di quelli che hanno amato un certo tipo di calcio, ma anche quelli che hanno amato e amano un certo tipo di cinema, visto che Ken Loach gli ha aperto una nuova carriera di attore. Insomma, questi sono i nomi più importanti. Come sempre Piazza Grande con tanto cinema americano di stagione. Vogliamo segnalare il nuovo film dei registi di Little Miss Sunshine, che si intitola Ruby Sparks, tanto per dirne uno. E poi il concorso, non dimentichiamolo, con un film italiano a correre per il Pardo d'Oro, l'opera seconda di Edoardo Gabriellini, Padroni di casa, che vede nel cast tra l'altro Valerio Mastrandrea, Valeria Bruni Tedeschi e Delio Germano. Quindi insomma anche l'Italia rappresentata ai massimi livelli. Noi entriamo un po' nelle varie sezioni del Festival di Locarno con una chiacchierata che abbiamo raccolto alla presentazione milanese con il direttore Olivier Perre. Come sempre, in questo incontro di luglio, inquadriamo il Festival di Locarno, capiamo che cosa andremo a vedere e cosa mostrerete. E vedo un'edizione con una Piazza Grande e una serie di omaggi che riguardano più da vicino forse l'anima vera dello Star System all'europea, però. Sì, è vero, abbiamo voluto fare un festival ricco in omaggi, generoso, aperto a tutto il cinema. È vero che abbiamo artisti che hanno fatto la storia del cinema, ma piuttosto del cinema europeo. Direi della nostra storia del cinema in Italia, in Francia, in Inghilterra, anche se c'è anche una presenza americana forte, però piuttosto nel lato del cinema indipendente, anche se abbiamo il divo Ari Belafonte, attore e cantante mitico di Hollywood. Però è vero che abbiamo un omaggio, un Life Achievement Award a Alain Delon, che per me è veramente la star del cinema fuori di Hollywood, anche se lui ha avuto una piccola carriera americana, lui è veramente la star del cinema europeo. Abbiamo Charlotte Rampling per l'Excellence Award, abbiamo Ornella Muti per un omaggio, Renato Pozzetto, che lui è la parte popolare della commedia italiana, che ne ha fatto parte anche la Muti con i film di Risi, di Ferreri, di Monicelli, e anche una forte presenza asiatica con registi molto importanti che fanno oggi il cinema asiatico, il cinese Johnny To, la giapponese Naomi Kawase, il thailandese Apichapong Verasethakul, il coreano Im Sang-soo, che sono per gli omaggi o nella giuria. Dunque abbiamo voluto mostrare tutto il cinema di tutto il mondo, però anche il cinema nella tutta la sua diversità e tutta la sua storia, dal passato fino al futuro. Dalle star di ieri, possiamo dire, a quelle di oggi, per esempio il film italiano in concorso si porta dietro alcuni nomi che sono nomi di primissimo piano nella recitazione al maschile in Italia oggi. Certo, abbiamo delle star, abbiamo degli attori emergenti, degli autori nuovi, però abbiamo anche dei nomi molto importanti, soprattutto nel cinema italiano: Valerio Mastrandea, Elio Germano, Valeria Bruni Tedeschi. Dunque è vero che sarà una proiezione molto speciale con tutto questo cast. Un film è prodotto da Luca Guadagnino, c'era anche Jenny Morandi che viene, lo faremo salire sul palco per cantare, sì. Cosa vi ha colpito di più nei film in concorso? Abbiamo 19 film, ovviamente abbiamo invitato film che hanno una forma più classica, che sono delle belle storie che possono piacere al grande pubblico, e questo è importante, penso a Padrone di casa per esempio, però abbiamo quest'anno una linea che è piuttosto radicale, piuttosto tornata per una forma poetica e più legata al documentario. Abbiamo un film End of Time, un film svizzero che è un documentario sul tempo, però in un modo molto, molto spettacolare, molto sorprendente, un po' come i film documentari di Werner Herzog per esempio. Abbiamo un film americano girato su una nave di pescatori, che è veramente molto impressionante. Dunque penso che la parte sperimentale, di ricerca, di novità, è ancora più presente quest'anno nel concorso internazionale. Senti, parlavi prima di Pozzetto, mi veniva in mente, vedendo prima le immagini dell'anno in cui è venuto Alberto Sordi a ritirare un premio alla carriera. Ecco, senza ovviamente fare raffronti, però tutto sommato un premio a Pozzetto a Locarno ha un po' quel sapore che ebbe per un altro grande protagonista della commedia, seppure diverso, come Alberto Sordi. Sì, è vero che purtroppo non sono più con noi i grandi Sordi, Toniazzi, Manfredi, che hanno fatto tutta la commedia italiana. Pozzetto direi che fa parte dell'ultima parte di questa grande famiglia di commedianti, di attori molto divertente, e lui mi piace perché ha fatto un film di La Tuada che trovo veramente geniale, o Serafina, ha avuto delle parte interessante, e un personaggio che fa parte della storia del cinema popolare italiano. Penso che è importante di avere a Locarno, che è un festival molto esigente, molto tornato alla ricerca, all'arte, di avere anche la dimensione popolare, triviale del cinema, che è anche una dimensione molto forte, molto importante. E poi c'è un altro omaggio, mi sembra molto importante quest'anno, quello alle Oscar Hax, che è uno che si vede poco, ma che ogni volta che mette a segno un film è un terremoto, diciamo. Sì, Carax è un regista molto importante del cinema francese e del cinema mondiale, che ha cominciato la sua carriera negli anni 80 con primi film molto noti, molto importanti, e ha fatto quest'anno in certo modo il suo comeback, il suo grande ritorno, con un film che era in competizione, in concorso a Cannes, che si chiama Holy Motors, che io trovo veramente geniale. Dunque quando ho visto il film, e da questa proiezione che è nata l'idea di invitarlo, di dare a lui il premio Pardo d'Onore, è vero che lui è un uomo molto misterioso, molto segreto, molto timido, che non si mostra, che non parla, un po' il Salinger del cinema francese, e ha accettato subito. Dunque lui viene e ne approfittiamo per mostrare tutti i film di Carax, che non sono tanti, però sono 5 o 6 e sono tutti molto importanti. Sì. E allora, per chiudere, ritorniamo su Piazza Grande, che poi è il cuore di questo festival. Dacci un paio di titoli di Piazza Grande, di quelli di cui ti senti particolarmente orgoglioso. Sono molto contento di mostrare sulla piazza il nuovo film di Steven Soderbergh, Magic Mike, in prima europea, prima l'uscita in Francia, in Italia, è un film molto riuscito che conto tra i suoi film più belli degli ultimi anni sulla vita del spettacolo dei club di Los Angeles. Abbiamo un film francese, Quelques heures de printemps, che è molto bello, un dramma con Vincent Lindon e Emmanuel Seigné. Il film mi è piaciuto molto. Il film d'apertura è un poliziesco inglese, The Sweeney, nella tradizione del poliziesco inglese, con Ray Winston, che è il film anche molto, molto riuscito, molto divertente. Abbiamo film svizzeri molto originali, con un film che è una parodia dei film d'horror e dei slasher, per la versione svizzera, dunque, che si chiama Miss Swiss Massacre, che penso piacerà molto al pubblico della piazza. E abbiamo alcuni film che abbiamo ripreso da Cannes, che mi hanno piaciuto molto, come No di Pablo Larraín con Gael García Bernal, e un film molto particolare che si chiama Sightseers di Ben Whisley, che è lui il nuovo rappresentante della commedia e il cinema di genere inglese, che ha fatto un lavoro eccezionale. Sono un po' più di due, ma va bene lo stesso. Mi dispiace. Buona annata. Eri il migliore dei migliori. Il giorno più bello della mia vita è stato quando sei tornato a una vita onesta, hai costruito una famiglia e sei uscito da quel giro. Che succede? Chris, torna a casa. Mio fratello. E beh, questo è l'inizio della seconda parte della Rosa Purpurea. Parliamo di Contraband, ne avete sentito una piccola clip che faceva un po' da C'era una volta, se vogliamo, e abbiamo già capito che il protagonista di questo film, al secolo Mark Wahlberg, insieme a Kate Beckinsale, ma anche, voglio sottolineare, a Ben Foster e a Giovanni Ribisi, uno straordinario cattivo, insomma, anima questo film, che dal titolo stesso ci racconta, insomma, qual è l'ambiente in cui si muove. Chris Faraday, appunto, era uscito dal giro, era uno dei più grandi, il più grande fra gli addetti al contrabbando nei meandri del porto e anche dell'entroterra di New Orleans. Si era ritirato per stare con la moglie, per dedicarsi ai suoi figli, ma qualcosa lo ritira dentro, e anche questo, se vogliamo, un piccolo classico del cinema d'azione americano. Qualcosa lo tira dentro a un'ultima azione, a un'ultima missione. Che cosa? Il fratello della moglie, che è uno che ama un po' mettersi nei guai, o quantomeno non è capace di starne lontano, e avendo in mano una missione piuttosto semplice da compiere, combina un pasticcio. Lo vediamo nella primissima scena del film, una partita di droga intercettata dalla polizia portuale e buttata di nascosto in acqua per cercare di salvarsi. Gli spacciatori, diciamo così, i committenti, non saranno molto felici di non vedersi arrivare questa partita di droga, e minacceranno il giovane maldestro, interpretato appunto da Ben Foster. Ecco che allora deve intervenire il cognato maggiore, Chris Faraday, il grande del contrabbando, Mark Wahlberg, a cercare di sistemare tutto. Devo risolvere questa cosa. Fidati, so quello che faccio. Che contrabbandiamo? Banconote false. 15 milioni in quattro casse così grandi equivalgono a una Mini Cooper. Dove le nasconderai? Non vi fidate più, ho perso la mia autorità. Devo ricominciare da zero. Chris Faraday rimette insieme alla sua squadra, va a recuperare i suoi vecchi scagnozzi e amici qua e là, e si dedica appunto a questa missione, contrabbandare questa volta una grandissima partita di banconote false ancora da tagliare, quindi insomma anche con una certa cubatura che va nascosta. Non è la cosa più semplice, ovviamente la missione sarà tutt'altro che lineare, se no il film non c'era, e quindi ne troveremo di tutti i colori: imboscate, sparatorie, aggressioni, pericoli che da lontano la moglie e i figli correranno. C'è un po' di tutto, ci sono tutti gli ingredienti della spy story e dell'action movie. Tutto questo poi per arrivare a un epilogo diciamo drammatico della situazione. Piegherai un sacco di uomini. Che cosa diavolo trasporta? Lo vuoi sapere? Così farai vedere questi idioti come se lavora. No, senti, non posso. Ti darò quelle banconote gratis. Beh, grazie lo stesso, ma io devo prendere una nave, quindi. Avanti, non dirmi che non ti manca farlo. Adesso ho due figli piccoli, capisci? Quei tempi sono finiti. Avanti, Danny! I soldi sono spariti. E anche Andy. Cosa? Ma che cazzo dici? Tu Tu sei venuto qui per trattarmi da coglione. No, tranquillo, non lo farei mai. Ti dovrei ficcare una pallottola in testa adesso. Non è un capolavoro, non è una novità questo Contraband, però è un film fatto in maniera perfetta, è un film a orologeria, potremmo dire. Lo dirige l'islandese Baltasar Kormákur, era in patria piuttosto famoso per alcuni action movie, adesso sbarcato a Hollywood, una Hollywood indipendente, un film costato 25 milioni di dollari, proprio emblema di quel prodotto medio americano. In America un prodotto medio ha 25 milioni di budget, certo, non ne ha però tantissimi rispetto ai loro standard, ne ha incassati solo nel mercato interno 60, e quindi ha portato a casa più che il doppio delle sue spese. Sta girando il mondo, ha una star come Mark Wahlberg, ha tanti bravi attori di contorno, rispetta tutte le regole del genere, esagera il giusto in appunto pallottole sangue per mettere lì il pubblico, e appunto, pur senza innovare particolarmente, ci regala un paio d'ore di intrattenimento ad alta adrenalina che ci fanno appunto capire come sia importante, soprattutto per il cinema americano, riuscire a puntare su questi film per poi riuscire a trovare le energie anche finanziarie per produrre quelli più grossi dei grandi autori. Questo è Contraband. Ebbene, adesso, prima di passare a parlare di Bedtime, proposta europea invece, thriller, non sprecherei la parola horror, ma ne parliamo fra poco, cominciamo a giocare insieme, e lo facciamo con un film di questa stagione. Ascoltiamo la prima clip. E tu in cosa sei bravo? In niente, signore. Però sei un buon osservatore, eh? Lo siamo tutti noi solitari. Scommetto che sei il miglior osservatore della squadra. La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi avremo altre due tracce misteriose. Felice, è proprio questo il mio problema, che io non posso essere felice. Non lo sono mai stato, nemmeno quando mi sono capitate cose belle. Non potete neanche immaginare cosa significa alzarsi ogni giorno senza nessuna motivazione. Lo sforzo che devo fare per trovare una ragione, solo una, per non mandare tutto a puttana. E vi assicuro che ci metto tutto il mio impegno nel farlo. Tutto. Ogni giorno della mia vita. Non scoppia niente, questo era solo una sveglia. Era solo una sveglia perché stiamo entrando nel clima di Bedtime, che gioca sulla parola bed, sulla pronuncia anglofona. Bed come letto, ma bed come cattivo. Perché effettivamente il time di cui si racconta in questo nuovo film di Jaume Balagueró, in questo nuovo thriller spagnolo, è un tempo piuttosto bizzarro. Qualcuno ha la mania di guardare sotto il letto, conosco qualche persona che guarda sotto il letto e che ha un certo timore di quello che potrebbe esserci sotto il proprio letto, e che è un posto difficilmente raggiungibile dai nostri sguardi, se non ci mettiamo a guardare apposta, insomma. E proprio su questa piccola paura, piccolo o grande che sia, Balagueró ambienta il suo nuovo film, continuando a insistere su una location per i suoi horror e anche in passato per i suoi thriller più spinti, una location che dovrebbe essere il massimo della tranquillità, il massimo della sicurezza per chi la vive, ovvero la casa. Ma Balagueró mi aveva raccontato in una vecchia intervista proprio questo fatto, cioè di volere stressare un concetto appunto di sicurezza. Ci sentiamo sicuri quando siamo in casa, e voler buttare tutte le insicurezze, tutti i pericoli proprio lì dove noi ci sentiamo più sicuri. E allora Jaume Balagueró, dopo aver firmato il REC e il suo sequel, uno degli horror più azzeccati di questi ultimi 10 anni, dopo aver raccontato ancora di una casa non stregata ma degli orrori, quello sì, in Para entrare a vivir, il film che aveva portato anche al Festival di Venezia, dove due ragazzi affittavano un appartamento in una casa abitata praticamente da persone dissennate dal torbido cattivo di turno, questa volta in Bedtime ci racconta quello che succede a una giovane, a una bella ragazza molto viva, interpretata da Marta Etura, che tra l'altro sarà protagonista adesso alla fine del mese anche di Eva, un altro film spagnolo che sta per arrivare in Italia. Ragazza, dicevo, giovane, in carriera, molto, molto vivace, e il protagonista del film, interpretato da Luis Tosar, non riesce, come abbiamo sentito dalla nostra clip, mai a essere felice. César prova piacere a far soffrire le persone che lo circondano, anzi, più le persone che lo circondano sono felici, più lui si arrabbia. E approfittando del suo ruolo di portiere di questo stabile elegante di Barcellona, e avendo quindi le chiavi delle case, si infila di notte, non vi svelo niente perché lo vediamo nelle primissime inquadrature del film, si infila di notte sotto il letto della ragazza, Clara, questo lo vedete voi andando al cinema. Certo che la cosa avrà delle complicazioni. A un certo punto lui sarà scoperto e dovrà difendersi dalle accuse e dai sospetti che lo circonderanno, in un clima anche di crescente difficoltà nel rapporto con gli altri condomini. È qualcuno che mi conosce. Conosce le mie abitudini. Ti ho seguito in metro ieri. Sentivo il tuo odore. Sempre con quel sorrisetto. Buongiorno. Cosa sono queste cose sotto il tuo letto? Qualcuno deve sapere la verità. Sei una tosta tu, Clara. E allora, questo è un po' il sunto della trama. Qualche considerazione sul film? Beh, abbiamo già detto, ancora una volta Balagueró si dimostra una certezza. Il regista catalano non sbaglia un colpo. Dai tempi di Nameless sa come calibrare un racconto dell'orrore. Qui di orrore non ce n'è in termini cinematografici, in termini di genere. Questo è proprio un thriller puro, ma c'è un clima che accompagna lo spettatore sin dalle prime inquadrature. E poi anche la capacità di essere originali, pur tornando appunto a raccontare l'orrore vissuto dentro una costruzione, dentro un'abitazione, un film che è costato pochissimo, girato tutto in interni praticamente. Beh, c'è ancora un taglio, una capacità di lavorare sulle paure forse più ancestrali, come dicevo, no? Questa di quello che ci separa in quei 30 centimetri che ci separano dal pavimento quando dormiamo, e andare a scovare un altro possibile potenziale pericolo lì è stata davvero una genialata da parte di Jaume Balagueró, che firma Bad Time in uscita nei cinema italiani, ed è un film che noi vi consigliamo vivamente di non farvi scappare. Siamo ancora insieme alla Rosa Purpurea, alla terza parte del nostro programma. Come stiamo facendo ormai da un paio di settimane, viaggiamo all'interno del Moretti Pensiero. Nanni Moretti è stato ospite del recente Festival del Cinema, del Nuovo Cinema di Pesaro. Ha tenuto una lezione di cinema di un paio d'ore molto interessante, e dalla quale noi qui per la Rosa Purpurea abbiamo estratto alcune clip, alcuni momenti del Moretti Pensiero, e ve le stiamo proponendo. Questa è la terza e conclusiva tranche, la terza e conclusiva settimana in cui viaggiamo all'interno dell'approccio di Nanni Moretti col cinema, che è un argomento molto molto interessante. Questa settimana abbiamo ottenuto le sue dichiarazioni soprattutto su alcuni film che sono stati nodali nella sua cinematografia, e cominciamo allora ad ascoltarlo parlare di Eccebombo. Eccebombo era il suo secondo film, aveva fatto Io sono un autarchico, girato in Super 8, un film che voleva essere quasi un divertissement, invece è diventato un film che ha avuto una grandissima attenzione da parte della critica. E allora Nanni Moretti ci riprova appunto con Eccebombo, incontrando queste difficoltà. Speravo andasse 2 giorni al Cineclub, il Film Studio di Roma. Lì ci fu una trattativa con Adriano Aprà, Enzo Ungari, Amerigo Sbardella del Film Studio di Roma, e loro dicevano: ma un giorno? Io no, 2 giorni, un giorno, 2, ma ce l'hai parenti, testuale, ma va bene, giusto, io farei la stessa battuta oggi, ce l'hai parenti e amici a sufficienza per riempire il Film Studio, che erano 100 posti, per 2 giorni. Poi il film ebbe una grande fortuna e c'è stato tanti mesi, e andò anche negli altri cineclub in Italia. Ecco, io in questo passaggio, non, come dire, se avevo una mia personalità, un mio stile, un mio tono, una mia ironia, ecco, sempre quella poi mi sono portato dietro a contatto con quello che era potenzialmente, perché io non pensavo che poi avrebbe avuto successo, e c'è Bombo, con quello che potenzialmente era un pubblico molto più grande. Io non è che mi sono, come dire, spaventato per questa nuova possibilità. Diciamo, la mia ironia, il mio tono, i miei personaggi me li sono portati dietro in quest'altro film, che è stato altrettanto fortunato. E però, appunto, rivolgendosi al pubblico, diciamo, normale, ai cinema veri, insomma, fu visto molto, molto di più, ecco. E da Ecce Bombo a un altro punto nodale della sua carriera, quello di Bianca. Forse, secondo molti, il suo capolavoro, questo film con Laura Morante, un giallo-commedia, potremmo chiamarlo, sicuramente un racconto ancora una volta sferzante delle manie dell'uomo e in questo caso anche portatore di alcune delle battute più storiche del cinema di Nanni Moretti, tipo quella sulla Sacra Torte che si chiudeva con il mitico continuiamo così a farci del male, che è diventato un modo di dire, insomma, abbastanza diffuso. E allora l'approccio con Bianca alla lezione di cinema di Pesaro. Bianca è una storia d'amore, di nuovo mi innamoro di Laura Morante, però non sono più un professore, sono un suo collega, io sono un professore e lei pure, nel liceo Marilyn Monroe, che in realtà era la mia scuola Giacomo Leopardi, però insomma l'ho così, insomma, intitolato in maniera così un po' buffa, Marilyn Monroe, c'era alle spalle delle cattedre, dietro i professori non c'era il ritratto di Sandro Pertini ma quello di Dino Zoff, che la foto di Zoff che mostra la Coppa del Mondo dell'82, eccetera. Quindi era una scuola un po' particolare, quindi era una commedia su quel tipo di scuola, era una commedia sulla scuola, era una storia d'amore, però era anche un giallo, ecco, nel film si commettevano degli omicidi e poi alla fine si scopriva che l'assassino ero io, anche se una parte del pubblico non ci voleva credere. Cioè, alla fine, io allora molto più di ora andavo all'uscita dello spettacolo così a vedere cosa dicevano gli spettatori. Beh, c'era una confessione di 10 minuti, campo e controcampo, primo piano mio, primo piano del commissario di polizia, primo piano mio... Ma perché l'ha fatto? Erano suoi amici. Ah, i miei amici, io non divento... Insomma, 10 minuti di confessione. Era sospettato anche l'attore Remo Remotti, nel film si chiamava Siro Siri, un mio vicino di casa. Però, insomma, 10 minuti di confessione, il pubblico usciva e mi dicevano no, non sei stato tu, vero? L'hai fatto per scagionare il tuo amico, no? Non eri tu. Ecco, questo per dire che si era creato un po', che può anche... avere delle controindicazioni, questo fatto qui, così una specie di legame tra una parte del pubblico e il mio personaggio, per cui non volevano nemmeno credere che il mio personaggio, appunto, prendendo larga autonomia da me, poi in un film fosse un assassino. E allora arriviamo al suo film più recente, all'ultimo film che Moretti ha regalato al pubblico, un film di cui si è parlato molto anche per la delicatezza della situazione raccontata. Stiamo parlando di Habemus Papam, film che racconta le paure di un papa appena votato dal conclave, ma che non prende mai, non sente mai addosso il coraggio di esporsi in pubblico, non si affaccia mai a quel balcone, anzi scappa dal Vaticano in giro per Roma fra gli ultimi a cercare brandelli di quella vita e di quella società che ha paura di abbandonare, mentre uno psicologo, appunto Nanni Moretti, chiamato a capire cosa cosa abbia questo Papa all'interno del Vaticano, non può più uscirne perché ormai il Vaticano è diventato blindato. Dopo che il Papa è fuggito, le notizie non possono circolare. Chiaramente a volte grottesco, a volte drammatico, a volte divertente, come quello che succede all'interno delle mura vaticane, ma dicevo, sicuramente tutto si poggia sulla grande intensità della recitazione di Michel Piccoli. E proprio di Michel Piccoli ci parla Nanni Moretti. Michel Piccoli era un attore che ammiravo da tantissimo tempo. Mi vengono in mente ora due tra i tanti film che potrei citare. Uno lontanissimo, Dillinger è morto, di Marco Ferreri, e uno di pochi anni fa, Ritorno a casa, di Manuel de Oliveira. Però non l'avevo mai incontrato e quindi, scrivendo la sceneggiatura, non è che mi sono fatto troppo condizionare da questa speranza, perché poi non sapevo, cioè a me non piace doppiare un attore, a maggior ragione un grande attore, quindi non sapevo se poi sarebbe stato in grado di interpretare un intero film in una lingua non sua. Insomma, abbiamo scritto la sceneggiatura, e solo dopo aver scritto la sceneggiatura, per cui avevo un po' di scene da mandargli, gli ho chiesto di fare un provino, che poi era un po' paradossale questo, perché è uno dei più grandi attori che ci siano nel mondo. E quindi gli ho mandato 6 o 7 scene, lui se le ha imparate a memoria. Per farmi capire che nemmeno a lui piacciono le vacanze, mi ha convocato a Parigi venerdì 14 agosto. E io sono andato con una telecamerina, il mio assistente alla regia, è stato straordinario e anche rassicurante per quanto riguarda la lingua italiana. Io non ho mai pensato di interpretare il protagonista, anche perché, insomma, volevo che la storia di questa depressione, di questo smarrimento, di questo viaggio, sia fisico per Roma, sia all'interno di se stesso, dell'istituzione cattolica, insomma, questo viaggio fosse fatto da una persona molto più grande di me, insomma, abbastanza in là con gli anni. Ecco, quindi mi sembrava che la depressione di un uomo anziano fosse una storia più forte, più dolorosa. E allora prendiamoci una pausa dopo questo bel racconto del rapporto con Piccoli da parte di Moretti. Giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Volevo dirti che l'altra settimana qualcuno è volato a Parigi con un passaporto di comodo. E allora? Era Ricky Tarr. Perché me lo stai dicendo? Potrebbe essere una coincidenza, ma... Sei un anno velenoso, Toby. Perché non vai a fanculo da sua maestà e la pianti di coinvolgermi nel tuo teatrino? La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta con il vostro indirizzo per provare a vincere l'edizione non video di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E allora adesso noi torniamo a parlare di Moretti. Abbiamo le ultime due clip da farvi ascoltare. La prima riguarda una svolta epocale, quella che si è prodotta negli ultimi 5-6 anni con l'avvento massiccio delle tecnologie digitali per il cinema. Oggi girare un film è estremamente più semplice di un tempo. Non serve la pellicola, non servono telecamere da decine e decine di migliaia di euro, serve spesso una piccola telecamerina digitale, si fa tutto con un computer, e questo chiaramente ha aumentato in maniera esponenziale la libertà anche di molti giovani di cimentarsi con il film, ma ha aumentato, secondo Nanni Moretti, anche di molto la possibilità di farlo senza avere le armi e le conoscenze necessarie per affrontare questo mezzo. Oggi con il digitale è più facile fare dei film, il che significa anche che è più facile fare dei film senza riflettere sul mezzo espressivo che si sta usando. Non dico che quindi è più facile che ci saranno tanti film brutti, però per una persona che esordisce nel cinema è importante riflettere sul mezzo che sta usando, perché se lo usa così in maniera spontanea, gli sembra a lui, a lei, casuale, e in realtà non fa che riprodurre il linguaggio cinematografico o televisivo dominante, cioè i cliché, gli stereotipi, il solito modo di inquadrare, recitare, scrivere dialoghi che, senza rendersene conto, è entrato dentro di lui, dentro di lei, vedendo per anni cinema e televisione, ecco. E chiudiamo con una battuta e con una notizia, un ultimo stralcio della lezione di cinema di Nanni Moretti, quando gli è stato chiesto quale fosse il suo rapporto con le donne, ha risposto così: Moretti e le donne. Ma scusa, fatti gli affari tuoi. Ma devo dire, negli ultimi tempi spesso ho collaborato alla sceneggiatura anche con sceneggiatrici, insomma, per La stanza del figlio, per Il Caimano, per Abemus Papam e anche per questo film che sto scrivendo ora. Poi non lo so, nel senso che anche grandi attrici, sì sì, è una scenografa, la persona che ha curato la scenografia di Abemus Papam, che ha fatto un lavoro enorme, Paola Bizzarri, che per fortuna è stato molto premiato. È la prima volta che lavoravo con lei. Spesso Esmeralda Calabria ha montato i miei film, ma io insomma ci lavoro bene. Forse, certo, nei miei film senz'altro, ecco, ci sono più personaggi maschili che femminili, ecco, questo senz'altro è così. Il prossimo film, il protagonista, perché siccome vedo La signora dell'Anza, che io ripeto sempre le stesse cose, almeno gli do una cosa nuova, così il prossimo film, la protagonista è una donna, oh. Ecco, vabbè. O almeno una cosa nuova. Era la lezione di cinema di Nanni Moretti. Avete sentito la notizia: la protagonista del suo nuovo film, del film che sta scrivendo, sarà una donna, e come protagonista assoluta, come perno del film, è forse la prima volta nella sua cinematografia. Nanni Moretti, la sua lezione di cinema al Festival del Nuovo Cinema di Pesaro, che si è tenuto alla fine del mese di giugno. È stato davvero un piacere farvelo sentire. Ancora insieme alla Rosa Purpura, eccoci alla quarta parte del nostro programma, come da tradizione dedicata anche in questa estate alle visioni domestiche e ai film da vedere in casa, fra televisioni in chiaro, digitali terrestri, eccetera, per scegliere un buon film nella programmazione della prossima settimana. E come sempre le nostre proposte sono messe insieme e condivise con gli amici del settimanale Film TV. È già in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Allora, questa settimana ho voluto scegliere un film che ha abbastanza segnato un po' una fase del cinema degli anni Ottanta, un film di Edward Zwick, regista tra l'altro che, come dire, anche in futuro avrebbe messo insieme qualche colpaccio e vinto anche un Oscar, tra l'altro, ma il film con il quale lo abbiamo conosciuto si chiamava About Last Night, a proposito della notte scorsa. Sì, domenica 29 luglio su Rai Movie alle 22:50, a proposito della notte scorsa. Debbie e Danny trascorrono una notte insieme, piano piano si trasformano in una coppia, poi nascono l'amore e le difficoltà, tra cui la voglia di stabilità in contrapposizione con i desideri di libertà da single e in fin dei conti la chimera della maturità sentimentale. Nonostante sia un film degli anni Ottanta e il protagonista maschile sia Rob Lowe, non siamo di fronte a una semplice commedia giovanilistica alla John Hughes, anzi, perché il film è tratto da una pièce del grandissimo drammaturgo David Mamet ed è una commedia sottovalutata ma acutissima sull'incapacità affettiva e sull'autoreferenzialità quasi autistica di un'intera generazione. E questo è davvero un bel mélange di ingredienti per About Last Night, a proposito della notte scorsa, domenica 29 luglio ore 22:50 su Rai Movie. Invece il 15 maggio del 1991 il cinema e il Festival di Cannes tributavano una standing ovation di 10 minuti a uno dei più grandi maestri, Krzysztof Kieślowski, che aveva appena finito di regalare al mondo il suo La doppia vita di Veronica. Sì, mercoledì 1 agosto su Rai Movie alle 7.30 del mattino La doppia vita di Veronica. Veronica è di Cracovia, ha 20 anni, una voce stupenda e la passione per il canto che la conduce ad abbandonare l'amore e poi la uccide per una crisi cardiaca su un palcoscenico. Veronique è identica a Veronica, ma è francese, abbandona il canto per non sfidare la malformazione cardiaca di cui soffre e si rifugia nell'amore. È l'ennesima superba variazione sul tema del destino e della scelta per Kieslowski, che gira forse quello che è il suo capolavoro, dalla struttura musicale con echi, ritorni, rime e strade perdute, da non perdere. Assolutamente da non perdere La doppia vita di Veronica, mercoledì 1 agosto alle 7.30 del mattino, o siete mattutini o se no puntate i videoregistratori. Grazie a Giulio San Giorgio. Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, come sempre, tanto buon cinema anche da pescare nei meandri, neanche tanto nascosti, dei palinsesti televisivi della prossima settimana, come sempre, ripeto, in chiaro e quindi gratuiti, perché poi la nostra logica qui è sempre quella che il prezzo del biglietto si paga per il cinema, insomma, per vedere questa grande esperienza sul grande schermo. E parliamo invece adesso di home video, anzi giochiamo con l'home video, con la terza traccia del film misterioso di oggi. Io lo so chi sei. Voglio parlare col tuo capo. Controllo. Voglio fare uno scambio. Qualcosa di molto grosso. Voglio avere una nuova vita in Occidente. E allora, di che film si tratta? Scriveteci il titolo e poi il vostro nome, cognome e indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere la versione in Blu-ray di questo film. La settimana prossima sveleremo i nomi dei vincitori. Settimana scorsa invece avevamo giocato con questo film. Kyle Reese è a Skynet. Se questo è vero, il comando sta per riempire di bombe mio padre e il resto di quei prigionieri, e io non sono in grado di impedirlo. Trionfo capitolino per Terminator Salvation. Questo era il film della scorsa settimana. Hanno vinto due ascoltatori di Roma, Enrico Tintori, della provincia di Roma, diciamo, Enrico Tintori di Cerveteri e Diego Allega di Ciampino. Entrambi riceveranno la versione in Blu-ray di questo Terminator Salvation. E allora sentite le note della nostra sigla che ci dice che lo spazio della Rosa Purpurea di questa settimana si è concluso, la nostra ora di cinema è finita, non mi resta che salutare Giorgio De Luca in redazione, Matteo Comes in regia, darvi appuntamento alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15 qui su Radio 24 per la Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.